Scuola in tavola di Nicoletta Carbone. Ricette nuove, nuovissime, che ovviamente per fotografarle e non solo, insomma, dovuto prepararle e mangiarle. Cioè, e mangiarle. Vi assicuro che sono veramente buone. Uno soprattutto che piace tantissimo ai miei figli è un piatto giapponese che si chiama tonkatsu, che sono divertiti soprattutto dal nome tonkatsu. Sì, ho immagino quando tu l'hai pronunciato, ho detto pensa ai bambini. Sono risate veramente assurde. Buona domenica, eccoci qui per una nuova puntata insieme, o meglio una nuova e bella tavolata. A proposito, che cosa di buono, di bello, di salutare è rimasto dell'estate sulla vostra tavola? Scrivetecelo, condividiamolo. Possiamo usare naturalmente i nostri social, la pagina Facebook di Obiettivo Salute, oppure su Twitter, dove mi trovate come Nick con la K Carbone. Tra poco vi dico qual è il mio piatto estivo e anche l'abitudine che mi sono portata dall'estate, e la commenteremo con il nostro ospite, che non vi svelo che è qui, distante ma è qui. Andiamo. L'estate sta finendo, è un anno se ne va, sto diventando grande. Beh, prima che finisca, vorrei sapere il piatto, il profumo, il colore, la ricetta, il ricordo legato al cibo dell'estate che vi portate con voi. E voglio subito svelare che cosa ha catturato e si porta a casa dall'estate il nostro medicuoco, quasi cuoco, è qui in studio con me, distante, distantissimo direi. Sicuro ma quasi, presente. Quasi non la vedo, il nostro dottor Stefano Erzegovesi, che è direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano e grande amico ed esperto della nostra trasmissione, ci ha messo in cucina. Bene, buongiorno a tutti e ben ritrovati dal vivo. Dal vivo, quest'estate lei ci ha accompagnato con le sue ricette di medicuoco, quasi cuoco, insegnandoci a prendere proprio il meglio di quello che portiamo a tavola. Ma c'è sempre da imparare, da sperimentare cose nuove. Che cosa l'ha lasciato quest'estate a Stefano Erzegovesi? Ma cosa si è portato? Estate l'orto che c'è al paese di mia moglie, ho fatto un'estate montanara. Il basilico, le zucchine dell'orto. E quindi beh, le zucchine sono il suo piatto forte. Raccolte e la zucchina, come dire, noi facciamo queste campagne di liberazione nazionale per la dignità della zucchina. Ecco, il poterlo fare, il basilico, vabbè, probabilmente ce l'avevo nel DNA e sì, quindi è qualcosa basilico che mi lascia proprio un profumo e un ricordo proprio di casa. La zucchina, devo dire, che facilmente è maltrattata, facilmente sa di acqua. L'idea di mangiare una zucchina dove effettivamente staccata dalla pianta e mangiata poco dopo tende ad avere una concentrazione di sapore decisamente più potente e molto molto più piacevole. Quindi ha un sapore lontano anche un po' di nocciola, non trova? Parola, Nico, subito con la sensorialità. È la zucchina cotta bene e qui è la cosa fondamentale, perché una zucchina bollita la nocciola se la scorda. Una zucchina cotta bene, quindi concentrata nel suo sapore, soprattutto le parti più vicine alla buccia, che sono quelle più ricche di sapore, può ricordare la nocciola. Vero. E quindi potrebbe essere un'idea anche magari fare una zucchina trifolata e metterci una granella di nocciola tostata. Ma lei ha la passione delle zucchine, che sembra in realtà una verdura povera anche dal punto di vista nutrizionale. Questa è ancora la stagione. Che cos'ha di speciale la zucchina, a parte il fatto che lei è simpatica e lei parteggia per la zucchina perché viene spesso maltrattata, bollita, buttata lì, svenuta sul piatto di quel colore che così, non ha nessuna pille? Ecco, beh, da un lato le persone che hanno qualità ma che non si vedono mi sono sempre state simpatiche. Vi sentite una zucchina? Forza che è il nostro momento. Un po' zucchine, cioè se ci sentiamo un po' zucchine facciamo vedere quanto valiamo in realtà. La zucchina in effetti è un frutto, come tutti i frutti, frutto inteso proprio botanicamente, sì, come tutti i frutti estivi, che non ha una grande concentrazione di antiossidanti che invece troviamo di più nelle foglie, troviamo di più nei baccelli. È un alimento molto rinfrescante perché ricchissimo d'acqua. Ricordiamoci però che la buccia, quando sta sotto il sole e quindi quando si deve difendere difendere dai raggi del sole, si carica di principi antiossidanti che fanno bene alla zucchina, che sopravvive agli insulti del sole, ma fanno bene poi a noi, perché gli stessi antiossidanti poi hanno tutta una serie di funzioni collegate alla difesa dall'ossidazione e dall'infiammazione cronica. Allora, via con il piatto, il profumo, il colore, la ricetta dell'estate. Parliamo di ricette, parliamo anche di quello che abbiamo assaggiato in estate, per scoprire insieme al dottor Arzegovesi che cosa di buono, di salutare e di bello possiamo mantenere e portarci in questa stagione, quindi arricchendo anche la nostra dieta quotidiana, per renderla anche meno monotona. Quando parliamo di preferenze, dottor Arzegovesi, lei è maestro anche della mente, noi possiamo parlare di preferenze da diversi punti di vista, cioè un sapore, un piatto ci rimane impresso nella memoria per diverse ragioni, non solamente perché è buono, conta la persona con cui l'abbiamo mangiato, il luogo, anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Siamo stati catturati dalla bellezza di un piatto, anche di una semplice insalata, ma con colori particolari, accostati, verdure tagliate in modo differente. Dottor Arzegovesi, lei di tutte queste nostre esperienze, di quelle che ci scriveranno i nostri amici, ci aiuterà a fare tesoro, perché c'è sempre un'occasione di prevenzione, di investire in salute in tutto quello che noi portiamo a tavola. Mangiare meglio, no? Vuol dire nutrirsi meglio, ma attenzione, tutto quello che diceva è importantissimo. Mangiare meglio vuol dire anche comunicare meglio, perché tutto quello che ha a che fare con il rapportarci col cibo che abbiamo davanti, ma di conseguenza col rapportarci con le persone con cui condividiamo il cibo, è a tutti gli effetti un atto sociale, ma anche psicologicamente sociale, e quindi ha molto a che fare poi con l'espressione delle emozioni, con l'espressione delle buone capacità di comunicazione. Alla fine stare a tavola bene è un modo per, passatemi in termini un po' eccessivo, per avere un mondo più pacifico, e quindi insomma cerchiamo di lavorare molto in questa direzione. Come avete mangiato voi durante l'estate, durante le vostre vacanze? Adesso noi ci fermiamo, voi pensateci, e il dottor Arzegovesi tra poco, subito dopo la pausa, ci darà 5 segnali, proprio, no, che stanno sulla punta delle dita, per capire se quello che abbiamo mangiato ci ha fatto bene e quindi se dobbiamo continuare su quella strada o fare dei piccoli aggiustamenti. Vi aspetto, a tra poco. La bufala in tavola. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Buona domenica a voi, buona domenica al nostro medico cuoco, quasi cuoco, che qui distante, proprio l'ho messo in fondo alla tavola della bufala in tavola. Ci vediamo da lontano. Ecco, ci facciamo i segnali di fumo, ma siamo qui tutti insieme appassionatamente per parlare naturalmente di cibo, di quello che portiamo a tavola. Lo vogliamo buono, lo vogliamo anche bello, perché anche l'occhio vuole la sua parte, lo vogliamo nutriente, vogliamo che insomma il cibo faccia un po' quello che deve fare, cioè nutrirci e aiutare il nostro organismo a funzionare bene, perché è questo che è il suo compito, sì. Dottor Arzegovesi, mangiamo non solo per gola, ma anche per stare bene, su, come si dice, di salute, ma proprio per stare bene da un punto di vista globale. Se ogni nostra cellula è nutrita bene, sicuramente avremo una pressione arteriosa giusta, il colesterolo giusto, l'infiammazione bassa, ma staremo bene in generale. Le dico di più, starà bene anche il nostro cervello, come insegna nel suo libro, di cui abbiamo già parlato, ma da cui abbiamo preso tantissimi spunti, La dieta della mente felice. Mi piace ricordarlo perché ormai è dimostrato che quello che mettiamo nel piatto non solo migliora la salute cardiovascolare, permette al nostro fegato di funzionare bene, rende i nostri muscoli tonici e scattanti, ma aiuta anche la nostra mente. Eh sì, quello che sembrava un'area segreta e proibita, nel senso il cervello lo si immagina sempre al di là di una barriera e quindi in qualche modo quasi inavvicinabile da quelle che sono le nostre abitudini. In realtà quello che noi mangiamo, soprattutto se mangiamo per quelle che sono le linee guida attuali, quindi un'alimentazione mediterranea con base prevalentemente vegetale, si abbassa l'infiammazione, funzionano meglio i nostri batteri intestinali e il nostro cervello, sicuramente come difesa dallo stress, sicuramente come regolazione dell'umore e sicuramente come regolazione dell'ansia, funzionerà molto meglio. Quindi consideriamolo un motivo in più per mangiare bene. Allora, a proposito di mangiare bene, abbiamo mangiato bene? Beh, dottor Erzegovesi, lei sicuramente con tutte quelle zucchine basilicose ha mangiato benissimo. Però qualche ma non pasto solo della festa, insomma. Dottor Erzegovesi, un breve, piccolo, semplice test in cui noi possiamo, senza stress a proposito, valutare quanto ci ha fatto bene quello che abbiamo mangiato quest'estate. Se la nostra dieta ha tutte le caratteristiche per farci stare bene? Beh, prima di tutto, diciamo, pensiamo a 5 cose, così abbiamo davanti la mano e facciamo in fretta a fare il nostro rapido test senza bisogno di altri strumenti. Prima cosa, mettiamo giù i piedi dal letto, cioè come ci sentiamo da un punto di vista energetico quando appoggiamo i piedi in terra e ci stiamo per alzare. Potremmo avere una sensazione energetica globale, quindi sì, mentale e fisica, buona, per cui sentiamo che siamo riposati e carichi per poter affrontare la giornata, e questo è sicuramente il primo punto che ci dice, anche senza dover andare indietro nel tempo, come abbiamo mangiato bene o male ieri sera. Ok, quindi guadagnate un punto. Chi risponde sì, wow. Piedi giù dal letto, okay, uno. Secondo. Secondo, andiamo in bagno. Sì. Ci guardiamo allo specchio, com'è la nostra faccia? Al mattino. I nostri occhi? Al mattino sì, però consideriamolo da un punto di vista anche proprio estetico. La pelle e le mucose, quindi il colore, la lucidità dei nostri occhi, la luminosità della nostra pelle. Non dimentichiamoci che la pelle va nutrita fondamentalmente dall'interno. Quindi benissimo tutti i prodotti per migliorarla all'esterno, però, ma va nutrita all'interno. Un buon microcircolo rende la pelle rosea, setosa, luminosa e con meno rughe, e quindi guardiamoci allo specchio. Terzo, dopo esserci guardati allo specchio, ci spostiamo un po' a destra e ci sediamo sul bagno, cioè sul water. E quindi come funziona il nostro intestino? Un intestino regolare significa indirettamente un segnale fondamentale che è: stiamo mangiando un'alimentazione ricchissima di fibra. Okay. Ne parliamo spesso anche qui, certo. La fibra deve essere ormai considerata si è sdoganato, cacca e salute. Cacca e salute, un nutriente fondamentale, esattamente come le vitamine, minerali e proteine, la fibra. Voilà, e siamo al terzo. Arriviamo al quarto punto. Il quarto punto fondamentale, il nostro livello di attenzione e concentrazione. Cioè, se noi mangiamo bene, nel momento in cui, dopo che abbiamo finito in bagno, prendiamo il giornale e ce lo leggiamo mentre facciamo colazione, dobbiamo sentire di avere una lucidità, una capacità di stare sul pezzo, quindi di riuscire a leggere e comprendere rapidamente quello che facciamo, che deve essere molto efficiente. Insomma, i neuroni sono belli sveglietti. Il neurone sveglio, ben non nutrito, con un microcircolo che non lo infiamma e che lo nutre bene, quindi il neurone funziona rapido e scattante, come piace a noi. Scattante. E il quinto punto riguarda il dopo pranzo. Il dopo pranzo. Anche lì è un momento delicato della giornata. Il dopo pranzo, già il dopo colazione, ma ancora di più il dopo pasto principale, cioè il dopo pranzo e il dopo cena. Pensiamo a come stiamo dopo un paio d'ore. Ci sentiamo svegli, ci sentiamo che se non beviamo un caffè doppio ci addormentiamo. Quello vi fa una differenza. Abbiamo fame? Ecco, se siamo affamati dopo 2 ore vuol dire che abbiamo mangiato cose con carichi glicemici troppo alti, quindi cose tendenzialmente troppo raffinate. Chissà come avrà mangiato il mio amico Andrea Vitali, che è in linea con noi. Abbiamo passato una splendida estate insieme ad Andrea. Andrea, ciao! Eccoci, ciao! Buon tutto, saluto tutti. Chiedo solamente una cosa, io ho fatto i conti, esistono i numeri negativi su questo conteggio finale? Ma va là, tu come quelli di Como? Como? Qua c'è su. Como ho abbastanza chiusa, ma si può discutere. Allora, dottor Erzegovesi, esistono i numeri negativi, ma Andrea Vitali è perfetto. I numeri negativi, cioè le cose da non fare. No, perché che... Allora... ho seguito bene questo conteggio, sono arrivato a 3, quindi mi sa, sono insomma appena sufficiente, come diceva la mia professoressa. Più sarebbe, della metà, quindi sarebbe quasi un 7 meno. Io sono un 7 più, mi sa. Bene. Come si diceva ai nostri tempi, bravo 7 più. Senti Andrea, di quest'estate che, quale piatto ti porti? Quale ricetta, profumo, colore? Ma guarda, non solamente da quest'estate, ma da tutte le estati della mia vita mi porto la peperonata. Fantastico, noi siamo fratelli di peperonata, allora il mio piatto preferito, Andrea. Sì, guarda, è un piatto, come dire, nei confronti del quale nutro un profondo affetto, perché anche nei giorni più bui e più fondi dell'inverno, se mi mettono sotto il naso la peperonata, è come se il sole ritornasse a splendere sul soffitto di casa mia. È vero, è un piatto allegro, oltre che squisito. Anche la mia nonna, quando ero piccola, me la preparava e diceva: Nico, ti ho fatto una bella pivruna! E a volte ci spaccava sopra anche l'uovo. Buonissimo, uovo fritto e pivruna. Tu l'hai già assaggiato nelle tue peperonate incursioni? Assolutamente sì, devo dire, vorrei fare una sorta di, diciamo, di apologia della peperonata, perché secondo alcuni è un piatto pesante, forse sai perché? Perché nel suo nome echeggia un po' un senso di participio passato, che quindi è una cosa che si tende, no. E invece no, è assolutamente un piatto allegro, con l'uovo, lo faccio molto spesso, devo dire anche con dei formaggi morbidi tipo il caprino, i formaggi di pasta morbida, eccetera. Non so se sia una cosa, cioè voglio dire, uno come Cracco probabilmente mi massacrerebbe, ma i gusti, de gustibus ovviamente non si può disputare, e quindi io amo fare anche quei mischioni lì, peperonata, formaggio, uova, eccetera. Per questo è arrivato solo a 3 del nostro test, 5, dottor Arzegovesi. Beh, però dai, la peperonata... Vabbè, anche se siete colleghi può anche sgridarlo, eh? No, può anche andare giù pesante. La peperonata, sono un fan della peperonata. La cosa interessantissima che diceva adesso Andrea è la pesantezza, cioè questa idea, no però ho mangiato i peperoni, sì, mi vengono su eccetera. Attenzione, il peperone in quanto tale non è affatto indigesto. Ci sono persone che hanno una difficoltà a digerire la buccia del peperone. Perché? Perché la buccia contiene dei polisaccaridi, quindi delle fibre non facili da digerire, ma non per questo non tossiche, anzi ci fanno benissimo sempre le fibre. E quindi se proprio siamo tra quelli che fanno fatica a digerire la peperonata, semplicemente sbucciamo i peperoni, aggiungiamoci delle erbe aromatiche che possono migliorare la digestione, quindi ci possiamo mettere il timo, il basilico, ci possiamo mettere dei capperi o delle olive che ugualmente rinforzano le capacità digestive, e mangiamola come un piatto assolutamente salutare. Io la peperonata do un punto pieno senza dubbi, si può mangiare tutti i giorni come un piatto assolutamente salutare. Tutti i giorni, anche perché ci sono peperoni di tutti i colori, le mescoliamo. Mescolare tutti rosso, i colori, rosso, verde, giallo, antiossidanti diversi. Se vogliamo anche esagerare, mettiamoci dentro anche una liliacea, quindi mettiamoci la cipolla o mettiamoci l'aglio, che così rinforza ancora di più il suo potere. Certo, il gusto e diventa ugualmente forte e aiuta il distanziamento fisico. A questo noi lo promuoviamo da quindi, quando vedi, c'è il lockdown. Alla fine la peperonata protegge. Andrea, io ascolta, se posso osservare una cosa, innanzitutto stringo virtualmente la mano al professore per la cosa che ha detto sulla buccia dei peperoni, è una cosa che io faccio sempre proprio per evitare la difficoltà, diciamo, a digerirla. Ma ritengo indispensabile la cipolla nella peperonata, anche perché se tu pensi alla preparazione, diciamo, della peperonata, inizia con questo, con il soffritto di cipolle che è, come dire, una sorta di richiamo di sirene. Magia. È irresistibile, ma è magia pura. Poi arriva il peperone, che è un po' dolcetto, non so, un po' dolciastro, e quindi mitiga l'aggressività, diciamo, della cipolla. E infine il pomodoro, la passata di pomodoro, che mette d'accordo un po' tutti, e ne viene fuori questa cosa che non è solo ottima da mangiare, ma è bella anche da guardare, perché il colore, diciamo, della peperonata è come dire, fa venire in mente proprio le giornate intense, più accese, più luminose, anche più calde dell'estate, anche perché è fatta con i prodotti, diciamo, i prodotti della terra in estate, insomma, è un prodotto sano, non è necessario ricorrere a serre o prodotti modificati, eccetera. Ce li dà la terra spontaneamente. Questa ode alla peperonata di Andrea Vitali mi commuove. Mangerò la peperonata con doppia soddisfazione e leggerò anche con grande soddisfazione il metodo del dottor Fonseca, un giallo noir. A me piacciono tantissimo i gialli noir. Sì, sai, per una volta, di tanto in tanto mi piace farlo, ho abbandonato le rive del lago di Como o di Como, come preferisci dire no, tu, esatto, per trasferirmi in montagna, perché è una storia giustamente un po' gialla, come il giallo dell'uovo che si può mettere nella peperonata. Bravo, il giallo del peperone. Il giallo del peperone, esattamente. E quindi mi sono trasferito, diciamo, in alta montagna, in una montagna un po' cupa, chiusa, con poca vegetazione, dove c'è un particolare ex sanatorio che diventa una clinica abbastanza particolare, dove opera questo dottor Fonseca secondo mezzi non propriamente leciti. E capiterà una sorta di investigatore un po' sfigatello che dovrebbe risolvere e risolverà il caso che gli viene affidato, con un sistema abbastanza particolare, un po' metafisico, insomma, legato anche alla trasmissione del pensiero, all'interpretazione dei sogni soprattutto. Andrea, grazie, ti sono grata per essere stato con noi. Sono grato io a voi, buona domenica a tutti. A e prestissimo. Buon appetito soprattutto. Grazie ad Andrea Vitali. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme, continuate a scriverci che cosa avete imparato di buono dalla tavola dell'estate, che cosa vi portate anche per iniziare e riprendere questa nuova quotidianità. Noi continuiamo insieme al dottor Arzegovese. Intanto, che punteggio avete ottenuto dal test del dottor Arzegovese? Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività. Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà. Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare. Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa, sono tante le storie che ci racconta la bici e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con A Ruota Libera, ogni domenica alle 16. La bufala in tavola. Noi siamo qui, belli, felici, chiacchierini, stiamo raccontandoci che cosa di buono, di bello, di salutare abbiamo portato dell'estate sulle nostre tavole e vogliamo ripartire bene, ripartire, come si dice, con il piede giusto, anche con la dieta giusta. Dottor Arzegovese, abbiamo tante volte parlato qui alla tavola della bufala in tavola di quanto quello che mangiamo influenza la nostra risposta, non solo allo stress, ma ci aiuta anche ad essere più attenti, ad avere maggiore energia, anche a ritornare in forma, perché sappiamo che magari l'estate ci ha regalato qualche chiletto in più. Allora, quel che è stato è stato, quello che di buono che abbiamo incontrato ce lo portiamo dietro nel nostro zainetto, ma ricominciamo. Quali caratteristiche deve avere la dieta per la ripartenza, per ingranare la marcia? Sì, che vuol dire? Dobbiamo pensare di avere il sistema immunitario al meglio della sua condizione, ma dobbiamo pensare, come invece tutti gli anni, che l'autunno è una stagione di transizione che ci accompagna verso un adattamento a temperature più basse, e quindi questo vuol dire mai come in questo momento abbiamo bisogno di ricaricarci di tutti quei fattori fitochimici, soprattutto quindi di origine vegetale, che ci aiutano a poterci preparare per i freddi che stanno arrivando. Quindi la prima speriamo cosa... non arrivino subito, No, quello no, però il fatto di cominciare a sentire adesso che la mattina usciamo e sentiamo che comunque c'è un'aria diversa, è una cosa anche bella, significa che noi dobbiamo ascoltare, anche se viviamo in città, dei segnali della natura, che sono le temperature un pochino sono scese e, mi raccomando, altra cosa importantissima, la luce sta scendendo. Noi siamo, anche se esseri umani del 2000 e passa, siamo comunque ancora sensibili, esattamente come i nostri antenati uomini primitivi, siamo ancora sensibili all'andamento luce e buio, quindi noi siamo strettamente connessi ai ritmi del sole. Dobbiamo funzionare sempre meglio man mano che il sole sale, e sì, quindi dobbiamo mangiare e fare di più, man mano che il sole tramonta, quindi verso la sera, fare e mangiare di meno. Questa mi direi che è la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione. Quindi il dottor Arzegovesi ritorna: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero, proprio generale, come il sole. Come il sole che scende, ma in generale se anche alcune persone non amano fare una colazione troppo ricca, diciamo finché il sole sta crescendo noi possiamo permetterci di mangiare con più abbondanza e al limite anche con più ricchezza di zuccheri o di prodotti raffinati. Man mano che il sole scende le nostre cellule tendono a diventare più risparmiatrici, perché si avvicina il momento della notte, che è il momento della ricostruzione, della pulizia, e quindi la prima regola che noi troviamo nelle zone blu, quindi in queste zone dove ci sono tantissimi centenari in salute, è orari regolari dei pasti e in generale un po' più ricchi nella prima parte della giornata e un po' più poveri nella seconda, però comunque sempre agli stessi orari. Ecco, questo è il punto numero uno. Andiamo. Che cosa non deve mancare nella nostra dieta? Punto numero due. Torniamo a mangiare la pasta come la mangiavano i nostri bisnonni, quando la pasta era un alimento ricco, diciamo, quindi non c'era ancora la produzione di larga scala di adesso, e quindi si mangiava poca pasta e tantissimi vegetali. Quindi noi in un piatto dove magari ci mettiamo 40 grammi di pasta misurata a secco, mettiamoci 200-300-400 grammi di verdura mista. La peperonata di prima è perfetta con la pasta insieme. Adesso dobbiamo dirlo ad Andrea: celestiale, basta un pugno di pasta e ci sazia tranquillamente, piuttosto che un mega soffritto. Quindi facciamo una salsa di pomodoro, quindi ma ci mettiamo. Facciamo il contrario: non pasta al sugo, ma sugo con la pasta. Sugo la pasta, ecco. Esattamente. Pasta alle verdure, verdure con la pasta. Questo è sicuramente un ottimo consiglio per l'autunno, perché l'autunno ci porta ad avere dei bisogni, dicevamo, di fibre e di antiossidanti più alti. Pensiamo alle stagioni e a quanto stanno arrivando prodotti più utili per iniziare, diciamo così, a riscaldare i nostri motori. Perché la natura ci dà il prodotto giusto per il momento giusto. Ah sì, quello non sbaglia mai. Non sbaglia, basta prendere il prodotto di stagione e tu hai tutto quello che ti serve. Assolutamente, noi dobbiamo pensare che la natura sta facendo maturare quello che comincia a servirci di più. In questo momento continuano ad esserci utili tutti i vegetali con una componente di foglia, perché la foglia ha un grande potere disintossicante, ricca di magnesio e ricca di clorofille, quindi tutti i prodotti potentemente disintossicanti. In autunno noi dobbiamo un po' ripulirci in vista dell'inverno. L'autunno significa anche radici, stanno cominciando ad arrivare quei prodotti che crescono nella terra e quindi proprio perché crescono nella terra si devono difendere loro dal freddo, ma per difendersi loro dal freddo difenderanno anche noi dal freddo. E quindi pensiamo le carote, per me le carote ci sono tutto l'anno. Ma pensiamo alle rape, pensiamo a tutte le radici, pensiamo ai prodotti energetici antifreddo, tipicamente esempio le castagne, la zucca, pensando al bosco, funghi e frutti di bosco. Questo è il momento ideale per metterci funghi freschi e per metterci mirtilli, more, tutti quei frutti di bosco che sono veramente dei concentrati per il cervello, per la vista e per il nostro metabolismo di energia pulita e forte. Quindi prodotti di stagione, ricordiamoci, perché la natura ci mette a disposizione tutto quello che ci serve per affrontare anche questo passaggio. Guardiamo il sole e quindi distribuiamo anche un po' i nostri pasti anche in funzione più energia al mattino, meno energia verso sera, quindi rispettare gli orari. Anticipiamo anche probabilmente, se ce la facciamo, un po' l'orario della cena, perché in estate siamo diventati tutti un po' tardaroli, mentre le ricerche ci dicono che salutare, mangiare un pochino prima del solito e quindi per non coricarsi subito, quindi attendere almeno 2 ore dalla fine della cena al momento del sonno. Esattamente, sì. Il sonno è il momento di pulizia e noi dobbiamo arrivarci con lo stomaco già abbastanza vuoto. Allora, naturalmente in questa puntata in cui andiamo a scoprire insieme a tanti amici che cosa di buono e di bello e di salutare ha portato l'estate, non poteva mancare un'amica della nostra trasmissione, Livia Gamondi, giornalista, esperta in salute e benessere, che va un po' in giro anche un po' per catturare quelle che sono le mode, le tendenze che portano salute. Livia, ciao, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buona ripresa. Che cosa ti porti dall'estate? Allora, dall'estate mi porto delle scorte per l'inverno. Ah, come gli scoiattolini. Esatto. Faccio delle cose con le cose dell'estate, con gli avanzi dell'estate, con le verdure estive. Allora, c'è questa cosa che mi sembra molto interessante, tutto quello che ci ha raccontato e spiegato il dottore Segovesi, ma c'è anche una cosa sulle verdure che noi molto spesso non mangiamo tutte le verdure, buona parte la scartiamo, magari perché la buccia è un po' legnosetta o perché non incontra proprio il nostro gusto, però ci sono tante cose che possono essere tranquillamente riutilizzate. Ad esempio, possiamo fare il dado in casa. Questo mi piace, dottor Arzegovesi, lei non me l'ha mai data questa ricetta. Sono meno male che ha invitato la Livia, come si dice a Milano. La Livia con la LA. Ecco. Allora, possiamo fare il dado in casa con la verdura che ci è avanzata, il carote, sedano, cipolla, prezzemolo, eccetera. È molto semplice da fare perché basta cuocere, lavare bene le verdure, minuzzarle e cuocerle con un filo d'olio per un'ora e mezza e aggiungere il sale. E poi il sale è interessante perché possiamo calibrare noi la dose di sale. Certo. Per cui anche questo possiamo decidere noi quanto sale mettere. Una volta che il dado, che tutto il nostro preparato è ben cotto, lo passiamo. Perché un'ora e mezza non mettiamo neanche acqua, niente? No, un filino d'acqua. Proprio giusto perché non si attacchi. Esatto, ma proprio poco bassissimo, lentissimo, eccetera. Per la cosa più semplice ancora per portarci i sapori dell'estate, averli sempre pronti, è foderare gli stampini del ghiaccio con della pellicola trasparente, riempire con il cucchiaino le dosi di stampini e alla fine avremo dei cubetti di dado. Molto saporito, dottor Arzegovesi, cosa dice? Ottima idea quella di avere le dosi, le predosi, ricordiamoci l'accessibilità, apro il freezer e prendo il cubetto e posso avere profumi reali di verdura che ho conosciuto direttamente, che è sempre tutta un'altra cosa. Bellissima l'idea delle bucce, ricordiamoci che nelle bucce c'è la parte in cui la pianta si difende di più, quindi vuol dire grande ricchezza di fibra e grande ricchezza di antiossidanti. Però, ahimè, fibra vuol dire appunto legnosetto e fibra può voler dire gusto amaro, che sono poi i gusti che a noi umani lasciano comunque inizialmente perplessi. Ottima idea quello di poterlo riscoprire, perché in termini di salute non si discute, lì c'è la parte più quindi ricca. Mangiate la foglia, perché le verdure a foglia sono perfette, ma mangiate anche la buccia. La buccia, cuocendola, ad esempio questo trucchetto del brodo vegetale che recupera anche parti un pochino più coriacee, sminuzzate, mi sembra un'ottima idea. Un'altra idea veloce, Livia, che tu vuoi suggerirci? Un risotto con un risotto con le bucce di melanzane. Allora, se qualcuno... allora qua ci vuole tempo, risotto con bucce di melanzane, no. Chissà, no, ma noi ci fermiamo perché dobbiamo fermarci, come dice, mi hai stuzzicato, anche perché sono curiosa di sapere che cosa ci dirà dal punto di vista nutrizionale il dottor Arzegovesi, dove, quando ce lo farà mangiare, andiamo a sentire, aspettiamo. La bufala in tavola. Mangiamo la foglia, mangiamo la buccia. Dottor Arzegovesi, sembra quasi di lanciare una nuova campagna come quella di attenzione alle zucchine, di trattare con gentilezza le zucchine. Noi quest'anno, in questa puntata, proponiamo: perché non aggiungiamo anche le bucce, così non si butta via niente? Ma perché no? Non solo non si butta via niente, ma dicevamo prima, arricchiamo in grandissime proporzioni di salute, quindi assolutamente il motto allora verso l'autunno sarà: siate gentili anche con le bucce. Siate gentili anche con le bucce, loro lo saranno con voi. E parlavamo di bucce di melanzane. Livia Gamondi, giornalista, esperta di salute e di benessere, ci suggeriva di aggiungerle al risotto. Livia. Ma sì, è una bella idea, perché se si portano, per portare i sapori dell'estate in autunno, facciamo, se si preparano le melanzane sott'olio, magari le bucce non si utilizzano tutte, allora perché non utilizzare per fare un bel risotto che diventa anche un bel colore. È vero. Un bel colore estivo in autunno, è una bella idea, e ci sono tutte i nutrienti di cui parlava il dottor Secondetti. E il medicuoco quasi cuoco è contento e va bene così. Grazie Livia per essere stata con noi, ti auguro una buonissima giornata e una buona ripresa. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Noi abbiamo in linea l'uomo che sussurra le erbe. A quanti sussurri dovrà fare, perché i prati sono ancora pieni di erbe? Franco Lodini, ciao Franco. Sì, ciao, buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore Zegovetti. Buongiorno. E buongiorno, come dici sempre, ai radioraccoglitori. Ai radioraccoglitori, certo, perché questo poi è un periodo perfetto per raccogliere le erbe. Perché non fa più caldo e le erbe sono lì belle, belle frescoline che ci chiamano. Che erbette ci sono, Franco? Guarda, io ti ho portato questa misticanza che è composta da 26 erbe diverse. Ma bisogna pensare che ci sono solo in primavera, ma dopo qualche pioggia, finita la siccità, in questo periodo è veramente uno dei periodi migliori dell'anno per raccogliere le erbe. Senti, ma dacci due dritte per diventare dei radioraccoglitori. Allora, prima di tutto bisogna andare in campagna, in qualche posto tranquillo, isolato, dove c'è la possibilità di raccogliere queste erbe che sono abbondanti in questo periodo. E poi bisogna un po' non raccogliere così a caso, ma fare attenzione a quello che si raccoglie, e come ho scritto nel mio, in fondo al libro che ho scritto, il piccolo trattato sulla misticanza, ci devono essere delle erbe che compongono la parte principale della misticanza, diciamo un 50-60%, e delle erbe complementari che aggiungono sapori, aromi e odori. Però una cosa importante è che d'estate c'è il fenomeno dell'ispessimento delle foglie per il calore, per cui bisogna anche fare attenzione ai colori che si trova nelle erbe. Dobbiamo fare attenzione alle 50 sfumature, non di grigio ma di verde, per trovare le erbe che sono più consone a entrare nella misticanza. Dottore Zegovesi, qua siamo a livelli alti, perché io ho qua sotto gli occhi, la vede anche lei, ma io poi la metto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, la misticanza, cosa c'è nel cestino, mi ha scritto Franco, e 26 specie come ci ha detto, per in duetti è riuscito a mettere una misticanza di erbe spontanee crude, trovo il tarassa, con l'amaranto, la cetosella, la rucola selvatica, il terracrepolo che mi piace un sacco, la pratolina, la viola mammola, poi ho aggiunto le aromatiche, e carota, finocchietto, melissa, salvastrella, timo, e poi anche i fiori, la malva, la cetosella, l'altea, insomma è veramente un capolavoro, e di sapori, ma anche lei ci diceva, dottor Erzegovesi, che cercare verdi diversi vuol dire anche che aggiungere dei componenti, dei nutrienti. Sì, ma salute, assolutamente salute. Consideriamo che un vegetale che cresce selvaticamente, già solo per questo, è un vegetale che deve difendersi di più dal sole, dall'ossigeno e da tutti gli agenti esterni. Dovendosi difendere di più, deve produrre per sopravvivere molte più grandi quantità di antiossidanti. Molto interessante questa cosa che ascoltavamo adesso dell'ispessimento delle foglie con il caldo, cioè la verdura si difende per sopravvivere, ma in questo modo produce però produce più fibra e più antiossidanti, che poi a noi umani sono le cose che poi servono. Quindi veramente, beh, insomma, la genialità della natura non siamo noi a scoprirla. Franco, ma noi non riusciamo a fare una misticanza con 26 erbette, dacci una, così, due suggerimenti per fare una bella misticanza anche per chi non è un vero e proprio raccoglitore, un esperto. Possiamo cominciare a raccogliere quelle che sono più comuni, che si trovano anche vicino, anche alle nelle città, nei parchi delle città, dove magari c'è meno inquinamento, c'è meno sporcizia. E io in questo periodo sicuramente, oltre al tarasso, che è un classico che si trova sempre, c'è anche la regina delle erbe estive, che è la portulaca, è un po' inflazionata perché è diventata di moda da quando hanno scoperto che ci sono gli omega 3, quindi sono delle sostanze che fanno bene al nostro sistema immunitario. Però la portulaca è un'erba da marciapiede, si può mangiare anche da sola. So che a te piace molto la panzanella, no? Sì, ma che carina, come fai a ricordarti? Forse te l'avrò detto. Seguo le tue trasmissioni. Grazie, che gentile. E quindi la panzanella, nella panzanella ci sta bene, volendo come originalità ci si può mettere anche un po' di portulaca, che è un'erba grassa, un'erba da marciapiede, da calpestio. Si trova anche nei marciapiedi, nelle fessure dei marciapiedi, però in questo periodo è al suo massimo splendore perché si trova d'estate, a fine estate, e quindi la possiamo utilizzare benissimo, sia nelle misticanze per dare un po' di acidità, sia anche, perché no, si può anche bollire quando si fanno le patate lesse, no? Si dice in fondo. E la patata, che è un pochino stucca, insomma, no? È una patata, riceve, insomma. Riceve appunto riceve un po' di acidità dalla portulaca. Quindi la portulaca mi piace. Questa portulaca mi piace anche perché omega 3, rizziamo subito le antenne. Il dottor Erzegovesi lo invitiamo a nozze. No, omega 3, quindi un omega 3 vegetale, che è rarissimo appunto nel mondo vegetale, che è quello delle noci o dei semi di lino. Ma una cosa interessante, l'acidità dei vegetali, ricordiamocela sempre, perché l'acidità a cui non facilmente pensiamo, che può essere la portulaca, ma può essere anche, non so, il succo di limone o l'aceto, l'acidità esalta il gusto dei vegetali, lo rende sicuramente più appagante, più gratificante, e a questo punto lo rende, tra virgolette, più goloso, e quindi non più la solita verdura da dover mangiare perché ci fa bene, ma qualcosa che siamo contenti di mangiare e di finire il piatto. Franco, mi ricordi il titolo del tuo libro? Per chi vuole diventare un radio raccoglitore? Erbe selvatiche, ricerca, riconoscimento e raccolta del gruppo Giunti. Grazie. E per questa aggiunta della portulacca mi piace molto. Franco, ti abbraccio, grazie, buona raccolta. Buona raccolta a tutti, grazie. Ciao Nicoletta. Ciao, grazie Franco. Dottor Erzegovesi, qua non so, non abbiamo ancora poi alla fine deciso cosa mangiare. Ci facciamo naturalmente suggerire dai nostri ascoltatori qualche piatto. Che mangiamo noi oggi? Beh, la peperonata non si discute. Sì. Ci cuociamo un pugnetto di pasta bello al dente. E corta, ci io la farei. Una pasta corta. Sì, sì, vero? La pasta corta è l'ideale perché poi si amalgama, proprio si inzuppa di sapore e di sugo. Facciamoci una bella insalata mista, dove ci mettiamo una classica insalata acquosa, quindi una lattuga piuttosto che un iceberg. Ci mettiamo un po' Sai di fogliolini. Sai che c'è chi non digerisce la lattuga, eh? Eh sì. Perché la lattuga comunque ha delle fibre che non è facile per tutti no, girare. Vedi, uno dice, cosa mi faccio? Due foglie di lattuga. No, perché mi arriva... Altro che peperonata. Ma di questo parleremo in un'altra è puntata. È la fibra della lattuga. Comunque quindi, una insalata semplice, la arricchiamo con un po' di acidità della portulaca, la arricchiamo con una frutta secca che gli dà un pochino di croccantezza e che ci potenzia gli omega 3, una generosa girata di olio extravergine d'oliva, e siamo felici anche con la verdura. Fantastico. Allora, grazie a Gianmarco Fermati in regia alla parte tecnica, che è rimasto comunque a pancia vuota, a Laura Vanossi, che è in assistenza in redazione, preziosissima, al nostro medicuoco, quasi cuoco, che amiamo profondamente, per tutti questi suggerimenti e soprattutto per anche le indicazioni che ci dà per avere una mente felice. Il benessere mentale è fondamentale. Che dire, io vi devo lasciare, ma noi ci risentiamo domani alle 6, anzi dopo il GR delle 6, per iniziare bene la giornata. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Voilà, un saluto, una buona domenica dalla vostra Nico. Scriveteci, ricordatevi di scriverci e di condividerci.